effetto, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare, di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! E ciao a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate, questa è Radio Wombat, siete collegati sulle frequenze in onde medie 1359, oppure ci state ascoltando in streaming o addirittura attraverso i podcast. Queste sono le modalità con cui potete ascoltare Radio Wombat, ricordandovi che questa trasmissione, che è la stampa rassegnata, va in onda il lunedì alle 15.30 in diretta e in replica il mercoledì alle 23.59 e il giovedì mattina presto alle 8.30. Come sa chi ci ascolta con una certa regolarità, in questa trasmissione ci occupiamo di dare uno sguardo, una lettura il più possibile critica a quelle che sono le cronache locali, con un particolare riferimento a due vertenze popolari, che sono quella contro la costruzione dell'inceneritore di Firenze, Case Passerini nello specifico, e contro l'ampliamento e trasformazione dell'aeroporto di Peretola in aeroporto intercontinentale. Diamo anche spazio, ed è diciamo in qualche modo una mission della nostra trasmissione, a vertenze e lotte che sulla cronaca di spazio ne trovano ben poco o, come spesso avviene, vengono distorte e raccontate in una chiave e da un punto di vista che non è propriamente quello che le lotte vorrebbero esprimere. E ci sembra proprio in qualche modo il caso di quello che succede per lo sciopero di ATAF proclamato per sabato 15 di dicembre, quindi sabato della settimana in cui la trasmissione andrà in onda per l'appunto, e al quale abbiamo pensato di dedicare un po' di spazio, visto che la pubblicità, se così possiamo dire tra virgolette, che i giornali gli hanno fatto è una pubblicità che ruota quasi esclusivamente intorno a una notizia e a notizie date in modo sensazionalistico e allarmistico sulle aggressioni agli autisti. Queste aggressioni agli autisti, che sono frutto di una situazione esasperante per coloro che si trovano a attendere in coda l'arrivo dei bus in una situazione appunto come Alessandro ci racconterà, sono situazioni da non leggere, da non affrontare da un punto di vista dell'ordine pubblico e del securitarismo che va ormai così di moda tra destra e sinistra, ma appunto da ricondurre a una situazione strutturale che vive l'azienda ormai da tempo, perlomeno da quando è stata completamente privatizzata sotto il mandato del sindaco Matteo Renzi. Ma diamo la parola ad Alessandro che diciamo in alcune battute anda e rianda con me, ci spiega e ci racconta quello che sarà lo sciopero di sabato 15 di dicembre. Come lavoratori e lavoratrici di ATAF il 15 di dicembre saremo in sciopero. Uno sciopero che viene dopo una vertenza lunga, la vertenza ci sta vedendo in questi mesi lottare continuamente contro l'azienda. È una vertenza che riguarda le condizioni di lavoro e sicurezza. Come avete sentito, letto sui giornali ultimamente, aggressioni agli autisti, eccetera, eccetera. Il sindaco di Firenze che esce sui giornali dicendo che dovrà mettere i vigili sui bus a sicurezza dei passeggeri, a sicurezza degli autisti. Noi vediamo che tutto questo non serve, serve una cosa sola, che un servizio sia efficiente. Per fare un servizio efficiente bisogna che si siano i tempi di percorrenza, cioè da un capolinea all'altro, dei tragitti siano tempi congrui, cosa che questa azienda non sta facendo. Un'azienda è stata privatizzata, non ci scordiamo, e che non sta facendo più un servizio pubblico, ma sta facendo un servizio di denaro, un servizio di business. Non a caso non c'è più un lato sociale a quel parte di questa azienda, ma si fa solo esclusivamente con il business. Un'azienda, non ci scordiamo, che sta portando gli utili anche quest'anno, 3 milioni, circa 3 milioni di utili. Questi 3 milioni forse andrebbero reinvestiti molto probabilmente nel servizio. E come si fa a fare questi utili? Sulla pelle dei lavoratori e sulla pelle dei cittadini. Noi come sindacati abbiamo sempre ultimamente fatto una specie di indagine e stiamo controllando, stiamo guardando le percorrenze dei vari nostri bus, dei tragitti, cioè da un capolinea arrivare all'altro è lo stesso tempo che viene dato da Google Maps per fare una macchina. Esempio semplice, da il 35 e il 30 che arrivano dalla Piana, loro se viene fatto con Google Maps arriviamo a 50 minuti, se viene fatto con un autobus ugualmente è la stessa cosa, considerando che c'è anche da fare fermate e portare persone. Questo per fare business, questa è la battaglia che stiamo portando avanti, secondo noi, cioè le nostre condizioni di lavoro devono migliorare, come miglioreranno le nostre condizioni di lavoro migliorerà anche il servizio, questa è la cosa principale secondo noi di tutta questa. L'azienda su questo mi sta difendendosi come stanno vedendo sui giornali e l'amministratore delegato dice io voglio, do i soldi agli autisti per i disagi e loro non li vogliono. No, noi non li vogliamo questi soldi, diciamo, la sicurezza e le condizioni di lavoro per noi vanno oltre a quei 50 centesimi, quei miserabili 50 centesimi ci vorrebbe dare il giorno. Noi vogliamo lavorare tranquillamente, vogliamo portare serenamente le persone a lavorare, portare gli studenti, portare in giro e quello è il servizio pubblico. Se questo viene fatto, bene, facendolo con le condizioni e con i tempi giusti, Congri è una città che sta modificandosi, eccetera, eccetera. Ricordatevi, non qui si sta cercando di dare forse troppa colpa anche ai cantieri della città che ci sono, logicamente, e che portano traffico, ma le nostre percorrenze, i nostri tempi sono carenze strutturali dovute solo esclusivamente, ripeto, per far business. E questo il comune lo sa e non interviene, ma non può certo intervenire visto che è lui stesso quello che ha venduto l'azienda e non può certo far capire che forse l'errore più grosso è stato quello di privatizzarlo il trasporto pubblico. Quindi ricordo a tutti e chiedo insomma alle cittadinanze eccetera di essere solidari quel giorno con i lavoratori di ATA che sciopereranno il sabato dalle 18 alle 22. E quindi certo Radio Wombat è con gli autisti, con i lavoratori del trasporto pubblico anche se privatizzato e sosteniamo e sosterremo il vostro sciopero che ovviamente è anche il nostro. Ma visto che ci siamo Alessandro, approfittiamo con te per diciamo demistificare, andare un po' oltre la cortina fumogena della narrazione e del racconto dei giornali di Nardella, dell'amministrazione e dei poteri che ovviamente hanno solo da guadagnare e da fare business, come hai più volte ripetuto, dalla gestione dell'ATAF. Ti volevo chiedere, siccome sul giornale spesso e volentieri, e con questo mi riferisco soprattutto alla Nazione, che sappiamo essere il giornale dei bar, quello che più che letto viene sfogliato, i titoli sono spesso sensazionalistici e allarmisti e noi vediamo queste notizie sulle aggressioni agli autisti, ma per quello che ci hai detto, in breve vorrei, se hai voglia, se hai tempo, di allargare la notizia, ma queste aggressioni come avvengono? Qual è la dinamica? Cioè si parla di gente che è esasperata dai ritardi, dal disservizio e si rivolge in maniera maleducata agli autisti, sono vere e proprie aggressioni anche fisiche o c'è un ingigantimento degli episodi chiaramente che rientra nella cornice del securitarismo che domina le nostre cronache, la nostra vita e sembra e ce lo vogliono raccontare come l'unico problema. Cos'è che è successo? Perché appunto le paginate di giornale o quantomeno i titoli a sensazionalismo ne abbiamo visti varie volte, ti va di dirci qualcosa di più? Sì, certo, molto volentieri, ma senti, per la mia esperienza ti posso dire che adesso il 90% delle aggressioni sono dovute al malfunzionamento del servizio. Per fortuna sono aggressioni verbali, ora senza togliere niente a questo tipo di aggressione, soprattutto anche negli ultimi 2 mesi le 5 aggressioni sono avute, ripeto, per fortuna verbali, ma sono riferite, sono state fatte anche a 3 colleghe, quindi con offese sessiste, insomma non c'è sputi o botte al vetro, quindi insomma sono aggressioni che non fanno male quanto un cazzotto o qualcosa, però io psicologicamente sono difficoltose, però purtroppo è una guerra tra disagiati, cioè il lavoratore è costretto a rincorrere i tempi per poter fare un servizio, l'utente continua a aspettare ore alla fermata, magari vede passare due autobus con scritto deposito fuori servizio, il terzo autobus monta sopra, cioè diciamo l'impatto che ha è l'autista, quindi se ha una rimostranza da fare la fa con l'autista, capisci bene che a una fermata uno ti dice ma dove sei stato, alla seconda, alla terza fermata anche l'autista magari dopo è sotto stress e magari non si è fermato nemmeno un attimo dopo 3 ore e mezzo o 4 ore di guida, magari bisogna anche andare in bagno un attimo e non c'ha un posto dove andare e di corsa la reazione potrebbe essere non di quelle proprio diciamo più felici, ecco. Però ripeto, questa è solo una questione, io credo il 90% si risolverebbe in quella maniera, quindi sono contrario assolutamente a quanto sta dicendo Nardella, che è solo uno spot pubblicitario quello di voler mettere i vigili sulle auto, non servirebbe a niente, anche perché non credo che il vigilante di grado serva veramente a migliorare il servizio, i vigili farebbero bene a far circolare le macchine e a impedire magari qualche automobilista lascia la macchina antifa o quarta fila e blocca l'autobus, queste sono le cose. Logicamente fa molto effetto, come dicevi te, il giornale La Bar è molto, fa effetto, dice ah questo è il degrado di questa città, considera però anche negli ultimi casi non c'è stato proprio per spezzare una lancia, anche questo non sono state dovute a migranti, chissà se fosse stato magari un migrante a fare una cosa di genere, per fortuna diciamo è questo, però ti ripeto è solo grossa l'esasperazione che c'è da parte dell'utenza nel dover aspettare un autobus che non arriva mai. Eh sì, insomma ce n'hai dato di fatto l'ennesima conferma, ce l'aspettavamo, però credo che per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sentirlo dire da una voce che vede le cose dall'interno e ha da anni un radicamento, come quello dell'esperienza Cobas dentro l'ADAF e quindi conosce e incrocia le storie anche dei singoli autisti e delle autiste, sia certamente una cosa importante. L'ultima diciamo tra virgolette domanda o riflessione che ti chiedo di fare Alessandro è questa: quando ci sono gli scioperi poi il commento, anche questo è abbastanza scontato, no? Si è bloccato il servizio, poi ora siamo sotto Natale, quindi il Natale senza bus, sulla Nazione abbiamo visto esattamente questo collegamento e uno dei ragionamenti che viene fatto, soprattutto per le esperienze di sciopero e di lotta all'interno del trasporto pubblico, è quello di rarefare gli episodi di lotta e di sciopero perché si lede il diritto alla mobilità. E qui mi pare che nel senso ci spingono ad operare una inversione totale, un rovesciamento completo della realtà, perché sì il diritto alla mobilità, ma la mobilità per quanta gente è un vero e proprio dovere, cioè chi usa soprattutto i mezzi urbani li usa per andare a lavorare, per andare a studiare, cioè per raggiungere luoghi della città da casa nei quali in qualche modo è costretta ad arrivare ed è costretta ad arrivarci in tempi che gli sono imposti. Quindi quando Nardella pensa di mettere i vigili sul bus, forse sì, è paradossale, ma magari una certa coerenza c'è, la coerenza di dire noi abbiamo un servizio che non funziona e di questo servizio che non funziona voi lo accettate e educatamente state zitte e aspettate e prolungate le vostre giornate lavorative. Ma insomma, diritto o dovere alla mobilità? Ecco, questa era la mia, come dire, provocazione nei tuoi confronti, che poi ci ricordi per l'ultima volta lo sciopero e su questo chiudiamo e ci sentiamo un'altra volta. Sì, purtroppo c'è da dire che la commissione di garanzia è già intervenuta ormai, è cambiato ormai da un paio, 3 o 4 mesi a questa parte, c'è uscita sulla Gazzetta Ufficiale che gli scioperi dei trasporti sono già stati sanzionati e già stati largamente distanziati. Considera che noi per arrivare a questo sciopero, questa formazione di sciopero di 4 ore è praticamente da metà novembre, fino a metà novembre, 10 novembre stiamo dietro a procedure prefetto eccetera eccetera. Il prossimo sciopero, se dovessimo arrivare a un prossimo sciopero fino a dopo la metà di gennaio, non è possibile fare, ci vuole 20 giorni tra uno sciopero e un'altra programmazione, quindi questo è già diradato su questo. Per quanto riguarda il discorso di civiltà di mobilità e diritto, ma io credo che indipendentemente dal diritto del dovere dei cittadini eccetera, però c'è anche il diritto di sciopero e il diritto dei lavoratori di poter esprimere il proprio dissenso e la propria lotta. Logicamente però si parla solo, esclusivamente, si parla sempre, ci si riempie la bocca di diritto alla mobilità solo esclusivamente sugli scioperi. Il diritto alla mobilità è anche quello che dovrebbero fare le aziende per mantenere un servizio pubblico efficiente. Quello non stiamo facendo noi a Firenze come in tante altre città. Considerate il 15 di dicembre, sabato, sciopereremo noi dalle 18 alle 22, ma nello stesso giorno e nell'arche simile stanno scioperando anche a Padova, a Rovigo, la stessa azienda Bus Italia è proprietaria di ATAF, quindi vuol dire proprio c'è un male, una malgestione da parte di questo, come si diceva, come ho ripetuto, per il solo business a discapito dei cittadini. Quindi quando si parla di mobilità bisognerebbe anche capire la mobilità, sì è vero è messa a repentaglio, a rischio quando i lavoratori protestano, ma è tutti i giorni messa a repentaglio e non rispettata con i servizi che queste aziende creano. Comunque lo sciopero noi l'abbiamo programmato stavolta di sabato, proprio per cercare anche di non incidere su quella fascia che dicevi te giustamente di studenti e lavoratori. Uno sciopero va a colpire lo shopping nella Firenze, città vetrina, insomma, ma bene o male per un giorno forse lo shopping può essere rimandato per un diritto, sì, per un diritto dello sciopero lavoratori e un diritto alla mobilità dei cittadini, perché questo è uno sciopero e va anche a favore per poter un servizio migliore e quindi un servizio efficiente per chi lo deve usare, un servizio pubblico, questo tengo a precisare. Il nano insomma contro ogni fascismo e contro ogni razzismo. Ci avete dato anni di politica fascista, xenofoba, razzista, di uno stato stragista. Anni nella tensione, coltivando la paura verso chi è diverso e vive immerso in diversa cultura. Mi fate schifo, mi vergogno di essere italiano. Mi piange il cuore se penso ad ogni partigiano, a tutte le donne che hanno dato la vita per la libertà, gridando no passaran, sognando un'altra società. Non ho pietà per chi sta zitto, zero vigliacchi mansueti contro i vostri divieti, perennemente in conflitto. La Croce Rossa fa profitto, ogni delitto è tra i segreti di completi idioti che ti dicono che il male è sconfitto. Non ti vedo convinto, quante morti dentro un CIE, quante ronde fasciste han fatto sangue nelle vie di città in cui la civiltà è scomparsa da tempo. Il paese dove l'ignoranza ha preso il sopravvento. Nessun commento sul vostro concetto di integrazione. Siamo tutti uguali, ma c'è chi si sente superiore, menti ammanettate dai dogmi di una religione. Ma la parola libertà non ha nessun colore. Fasci protetti da poliziotti e politici corrotti fanno pulizia razziale mentre tieni chiusi gli occhi. A Firenze un folle ha fatto 3 feriti e 2 morti. Siete stronzi se tutto questo non vi ha sconvolti. Antifascista sempre, non passaran, lacrime e dolore dentro un pezzo rap, senza nessuna razza né nazionalità. Fuori fascisti da tutte le città. Antifascista sempre, non passaran, lacrime e dolore dentro un pezzo rap, senza nessuna razza né nazionalità. Fuori fascisti da tutte le città. Per aver bastato un pacco di biscotti per more modu, hanno sparato 4 colpi a Torino. La brava gente italiana ha detto una bugia che ha costretto una comunità rom a scappare via. La pura follia di chi cova l'odio dentro, rappresentata pieno dai leghisti in Parlamento, gli stessi che con le loro leggi hanno decretato l'esecuzione camuffata di omicidi di Stato. Una bruca non si è impiccata, è stata ammazzata dal sistema. C'è chi ingoia 3 centimi per uscire di galera. Come faccio a essere grato a uno Stato malato? Un palazzo è stato dato ai fasci da una giunta di destra. Far funzionare la testa non è poi così scontato. L'antifascismo è lotta e la lotta non si arresta. Rileggi l'articolo 4 della legge Scelba e chiediti come mai sopravvive certa merda. Antifascista sempre, non passaran, lacrime e dolore dentro un pezzo rap, senza nessuna razza né nazionalità. Fuori fascisti da tutte le città. Antifascista sempre, non passaran, lacrime e dolore dentro un pezzo rap, senza nessuna razza né nazionalità. Fuori fascisti da tutte le città. Dare noi, con rabbia e con amore. Eccoci ed eccoci rientrati in voce. Se vi siete collegati adesso, questa è Radio Wombat, questa è la trasmissione della stampa rassegnata. Abbiamo orora presentato attraverso le parole vive di quello che in qualche modo è anche l'uomo nella fotografia, se così possiamo dire, perché è comparso sia su Corriere che sulla Nazione che sulla Repubblica, Alessandro Nannini del Covas, che appunto ci ha presentato lo sciopero dell'ATAF di sabato 15 dicembre. Quindi sabato 15 dicembre non aspettiamoci dei bus, anzi speriamo che l'adesione allo sciopero sia alta, ma in fondo, come ci ha detto, lo sciopero è di sabato, fatto apposta non per bloccare la possibilità di chi va a lavorare di raggiungere il posto di lavoro, di chi studia di andare a scuola, ma soprattutto fatto in qualche modo per difendere il trasporto pubblico in contrapposizione alla città vetrina e allo shopping natalizio. Detto questo, questa settimana che segue la giornata internazionale contro le grandi opere inutili e imposte, che era appunto sabato 8 dicembre, credo sia doveroso e in qualche modo anche entusiasmante fare un po' il punto della situazione per quanto ci riguarda rispetto a quello che è successo nella Piana Fiorentina, dando ovviamente un occhio di particolare riguardo a quello che è successo un po' in tutta Italia. Ripetiamolo per chi non si fosse collegato, ma insomma spero che la cosa fosse abbastanza capillarmente penetrata nelle orecchie dei nostri ascoltatori, perlomeno, visto che c'è stata, diciamo, una mobilitazione non da poco dai nostri microfoni, che ha visto impegnate sostanzialmente tutte le micro redazioni, i microfoni diffusi di Radio Wombat, perché di questa giornata ne hanno parlato sia i redattori di Radio Contado, sia il gruppo di Fuoco alle Polveri, ne ho parlato io più volte, e ci siamo arrivati, direi, in maniera abbastanza. Diciamo, abbiamo preso la sufficienza, mettiamola così. La giornata, chiaramente, come sappiamo, veniva ed è lanciata dalla Valle. La giornata coincide e è stata scelta perché era il giorno in cui venne riconquistato il cantiere di Menaus, occupato dalle forze di polizia nel lontano 2005, se non vado errato, vado a memoria, non ho appunti, ma mi pare fosse il 2005, lo stesso anno della famosa battaglia sul Ponte del Seghino, che per certi aspetti è stato anche un po' è stata un po' la campana con cui la battaglia contro l'alta velocità in Val di Susa è uscita poi dalle cronache locali per assurgere a quelle nazionali e proiettarsi poi sullo scenario anche italiano dei movimenti e delle lotte per diventare presto e in modo non da poco, insomma, grazie al contributo anche di momenti di conflittualità forte, di determinazione e rabbia popolare, proprio come quelli raggiunti nel 2005 con la battaglia sul Ponte del Seghino e con la riconquista del cantiere di Venaus, insomma, gli hanno permesso di diventare quello che è una sorta di stella polare che, senza mitizzarla in alcun modo, perché come tutte le lotte, come tutti i processi di massa, ha i suoi alti e i suoi bassi, alle sue luci e le sue ombre, ma indiscutibilmente una situazione di conflitto e di coscienza popolare molto molto avanzata, che ha saputo insegnare e dare carica e motivazione in molte parti del paese e continua senza ombra di dubbio a farlo. Quindi la giornata di questo 8 dicembre è stata per il movimento No TAV anche evidentemente una risposta alla piazza Sì TAV, anch'essa un fenomeno di cui abbiamo parlato, del quale ancor più di noi hanno parlato, diciamo, delle radio sorelle, a partire dal radio Blackout, che ha dato giustamente spazio a commenti e opinioni, pareri, insomma, di torinesi, di abitanti di Torino e della Valle, più o meno competenti, nel senso, ha intrecciato e ha costruito una controstoria, una contronarrazione di quella che è stata la piazza Sittab, sia attraverso pareri accademici, sia attraverso, diciamo, le persone della strada, le persone del mondo del lavoro che subiscono e sono, diciamo, colpite da quella che è la retorica del sit-tab, del sit-tutto o del partito del PIL, come giornalisticamente è stato definito questo tentativo da parte di grandi gruppi di potere, di Confindustria, Confcommercio, Camera di Commercio e quindi associazioni di categoria, di darsi per certi versi una base di massa e di provare a pesare sul governo, sull'attuale governo, anche attraverso la prova dei numeri e della piazza. Quello che è successo a Torino con la manifestazione Sit-Tav è un fenomeno che rischia di ripetersi in maniera abbastanza meccanica e con un automatismo nemmeno troppo interessante, però rischia di vedersi riprodurre un po' ovunque. Sembra, ci sono già paginate di giornale, a colori ovviamente, comprate anche sulle maggiori testate, che ci dicono che il 13 di dicembre sarà in piazza i commercianti e le associazioni di categoria milanesi in un pacchetto che praticamente è la replica di quello che era a Torino, e abbiamo visto e ne abbiamo già dato notizia più volte che anche sul nostro territorio Confindustria continua a spingere sia per la realizzazione, o meglio per la ripresa dei lavori ai cantieri TAV, sia per la realizzazione del famoso aeroporto di Peretola. Ed è proprio intorno alla vicenda dell'aeroporto di Peretola che, come ormai saprete fino alla nausea e al vomito, che non è solo questione di aeroporto, perché nel pacchetto proposto dai padroni del territorio l'aeroporto di Peretola è strettamente connesso allo spostamento del mercato ortofrutticolo in una nuova edificazione, in una nuova area edilizia che dovrebbe realizzarsi, dovrebbe essere costruita in quella che per i fiorentini resta l'area fondiaria, che però insomma oggi di fatto è passata alla Unipol. Quindi si sta parlando dei terreni che sorgono di fatto accanto alla caserma Marescialli, diciamo sul lato del viale 11 agosto, per arrivare all'attuale pista di Peretola e con alle spalle, insomma, diciamo guardando verso il Monte Morello, la zona di Castello, quella che è l'area fondiaria o area Unipol o anche detta area di Castello, dovrebbe appunto ospitare una nuova edificazione per far posto all'area Mercafir. Area Mercafir che quindi, lasciando vuoto lo spazio a Novoli dove ora è ubicata, permetterebbe la realizzazione della Cittadella Viola. Ovviamente quando si parla di questo si parla non solo di uno stadio e di un mercato ortofrutticolo che sia, ma si parla di edifici direzionali, si parla di parcheggi, si parla di gallerie commerciali, si parla di alberghi o studentati di lusso. Questa dello studentato di lusso che sta diventando veramente una ridondanza su Firenze, e comunque insomma si tratta di tantissimi metri quadri e metri cubi di nuova edilizia che insomma rischia, insieme all'aeroporto, perché non possono essere presi in modo separato questi fenomeni urbanistici, rischia seriamente di andare a realizzare una Firenze 2 che per dimensioni è davvero impressionante, soprattutto per impatto ambientale andrebbe a eliminare quel ultimo polmone verde che resta nell'area metropolitana fiorentina, che è appunto la Piana, quella che chiamiamo la Piana, e da questo punto di vista che si estende per l'appunto dalla fine del viale 11 agosto per arrivare più o meno al casello di Firenze Nord. Questa è l'area che sarebbe interessata da tutta questa serie di trasformazioni, alle quali poi si potrebbe pure aggiungere la terza corsia autostradale che andrebbe dall'altra parte, cioè diciamo più lontano rispetto al monte, ma nella zona di Peretola, andrebbe a strozzare Peretola con un groviglio di strade e di sopraelevate veramente preoccupante e impressionante. E comunque l'8 di dicembre, dicevamo, abbiamo per l'appunto voluto portare la nostra attenzione proprio su questa serie di possibili trasformazioni urbanistiche collegate all'aeroporto, di cui l'aeroporto resta il volano e la tessera principale del puzzle, e appunto siamo stati al polo scientifico. Dal polo scientifico, intorno alle ore 10, ci siamo concentrati per fare una camminata che aveva uno scopo essenzialmente esplorativo e conoscitivo. Siamo andati a vedere, sia passando per la oasi di Val di Rose, per poi arrivare al Lago di Peretola. Lago di Peretola che è in un'immaginaria linea, neanche troppo immaginaria, perché se guardiamo appunto le oasi con Google Earth più o meno si trovano su una stessa linea, e abbiamo la Querciola, abbiamo Val di Rose, abbiamo appunto il Lago di Peretola, e sono tutte oasi che verrebbero completamente asfaltate e piallate con il progetto di nuova pista aeroportuale che gli passerebbe esattamente sopra. E praticamente questo Lago di Peretola, più delle altre oasi, è in qualche modo stato al centro di una questione amministrativa e urbanistica non di poco conto, se pensiamo per esempio che il giorno precedente alla giornata contro le grandi opere a livello internazionale che noi abbiamo interpretato sui nostri territori andando, come dicevo, su questi terreni, il 7 di dicembre si era riunita a Roma la seconda conferenza dei servizi per l'aeroporto, per il nuovo aeroporto intercontinentale. Una seconda conferenza dei servizi, purtroppo per noi, dalla quale usciamo e nella quale dobbiamo rilevare un cedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non ha visto la presenza di Toni Nelli, e invece per quello che abbiamo saputo a conclusione della conferenza dei servizi, sembrava e ha riportato un atteggiamento di non particolare interesse nei confronti dell'approfondimento rispetto appunto a tutte le criticità di questa trasformazione aeroportuale. Quindi, nonostante le dichiarazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sia del Ministro appunto Toni Nelli in questi mesi, e della posizione del Movimento 5 Stelle negli anni rispetto a questo aeroporto, in realtà, insomma, alla seconda conferenza dei servizi, ovviamente si sta parlando di un organo decisorio e dal quale quindi in un modo o nell'altro si uscirà o con un sì o con un no, benché non necessariamente con l'unanimità, ma insomma si uscirà con un sì o con un no, e purtroppo dobbiamo dirci che la situazione è grave e che molto probabilmente sarà un sì. Il Ministero ha appunto non ha avuto quell'atteggiamento che ci si poteva o si sperava di poterci aspettare. Insomma, il 7 c'era la conferenza dei servizi che ancora una volta per questa tornata non è uscita né con un sì né con un no, ma con un rinvio ad una prossima seduta che si terrà il 29 di gennaio, e per l'appunto la seduta si è riaggiornata proprio perché c'è questo conflitto di cui abbiamo in qualche modo parlato e di cui oggi vorrei parlare ancora un po' di più, dandovi ancora qualche altra informazione, che è quello tra la compensazione ambientale del Lago di Peretola e una promessa stradale fatta alla comunità e agli abitanti di Signa, fatta anche con finanziamenti sia dalla regione che dal comune di Signa. Che cosa dovrebbe succedere? Praticamente la logica delle compensazioni ambientali, che è una logica dal nostro punto di vista assolutamente perdente e particolarmente pericolosa, perché se si pensa di poter compensare ogni ambiente naturale, stiamo dicendo che si può realizzare qualunque cosa passando sopra a qualunque tipo di vincolo e a qualunque tipo di difficoltà oggettiva, urbana, ambientale, faunistica o quant'altro. Nello specifico, il Lago di Peretola, che viene considerato dai dirigenti e dagli operatori pubblici e privati legati all'aeroporto, viene considerato un semplice stock di terra ed acqua. Questo stock di terra ed acqua verrebbe, nella loro immaginazione fantascientifica, ripiazzato accanto al Lago dei Renai. Quindi che si dice? Si dice che un lago, che di fatto è un ecosistema vivente, comprese ovviamente piante e animali che in esso vivono e trovano il loro habitat, animali che senza, come dire, senza enfatizzare niente, perché poi a volte potrebbe quasi sembrare che diciamo un'opposizione popolare si attacca, no, alla tutela di un animale raro del quale, dice, la gente se ne batte, diciamolo proprio male, te ne batti i coglioni per tutto il resto della tua vita, però diciamo ti attacchi alla tutela del tritone crestato perché ti fa comodo, perché non vuoi l'aeroporto. Quindi non enfatizziamo più di tanto la presenza di questi animali, che sicuramente sono dal nostro punto di vista molto importanti, ma che non sono l'unico elemento intorno al quale gira la nostra contrarietà all'aeroporto, per l'appunto. Però c'è anche questo, quindi nelle oasi faunistiche, come il lago di Peretola, come il Podere della Querciola, come Val di Rose, come gli stagni di Fogognano, abbiamo anche specie anfibie di un certo interesse e pregio, come per l'appunto il tritone crestato ed il rospo smeraldino, e ci sono poi anche uccelli e insomma animali appunto volatili, uccelli migratori, che nelle oasi trovano ospitalità e il loro habitat. E quindi insomma un lago e le oasi non verrebbero considerate nella loro complessità, ma appunto trattate come stock di semplici terra e acqua. Quest'idea di ripiazzare lo stock di terra e acqua del lago di Peretola accanto ai Renai va in conflitto ed entra in conflitto con una promessa fatta anche a suon di finanziamenti che la regione toscana avrebbe fatto nei confronti degli abitanti di Signa in primis, che vedono una quantità di traffico davvero impressionante passare all'interno del centro di Signa, con gravissimi problemi di inquinamento ambientale e testimoniati dalla condizione delle mura delle case, che sono veramente molto nere, e una situazione che gli abitanti hanno denunciato negli anni moltissime volte, facendo proteste di lenzuoli, un po' un classico, diciamo, degli anni 80, quando il traffico era una cosa che in qualche modo era cresciuto a dismisura e faceva effetto. Oggi purtroppo ammettiamo a noi stessi che non ci facciamo più nemmeno tanto effetto, perché ci sembra che il traffico è un elemento naturale del nostro paesaggio, e quindi diciamo se ne parla un po' meno a livello di massa, fa un po' meno, produce meno allarme sociale, anche se se ne parla moltissimo. A Signa, insomma, per tante volte è successo che gli abitanti esponessero dei lenzuoli bianchi alle finestre di casa per testimoniare che il loro graduale processo di annerimento era dovuto appunto a questo traffico stradale molto forte che passa dentro il paese. Ci passa dovendosi poi fermare al semaforo, rimanendo in coda, e quindi questo, come sappiamo, aumenta ulteriormente in modo esponenziale la produzione di PM2.5, PM10 e tutto il resto dei, diciamo, degli inquinanti che escono dai motori delle automobili. Quindi questa promessa che la regione e il comune di Signa hanno fatto agli abitanti verrebbe ad oggi di fatto cancellata se il comune e la regione, quindi la pianificazione del territorio, accetta la compensazione ambientale rispetto all'aeroporto. Purtroppo c'è da dire che nella stessa settimana che è finita con sabato 8 era iniziata con la decisione e il consiglio comunale di Signa, consiglio comunale al quale abbiamo presenziato in qualche modo contestandolo, dove il sindaco Cristianini, sindaco del Partito Democratico di Signa, ha deciso di portare a Roma il proprio sì e la propria compatibilità in quanto comune di Signa con questo scambio. Uno scambio che, ripetiamo, dal nostro punto di vista è certamente un danno molto molto grosso, sia perché di fatto diciamo porta un altro comune su una posizione di compatibilità con lo sviluppo aeroportuale, sia perché con questo si condannano le oasi, la tutela dell'ambiente, e nello stesso tempo si mette il sindaco Cristianini su una posizione di falso realismo che fa dipendere la promessa di nuova viabilità fatta ai suoi abitanti con l'accettazione dell'aeroporto, perché ad oggi, mentre fino ad oggi sono stati spesi già 30 milioni di euro della regione per la realizzazione di questa bretella e che non si è mai vista, ad oggi la posizione del Partito Democratico, che evidentemente fa i conti con i poteri forti del territorio che vogliono questo aeroporto a tutti i costi, si è ammorbidita e è diventata accondiscendente, e non solo accondiscendente ma complice, perché vuol far credere ai propri cittadini, ai propri abitanti, che questa nuova mobilità sarà possibile solo in cambio di questo sì all'aeroporto e di questo sì al laghetto di Peretola da accettare e da ricollocare accanto ai Renai. Quindi la situazione è veramente molto grave e appunto il contenuto, diciamo, della protesta popolare può essere riassunto da un buon articolo, credo, della Nazione, a firma di Stefano Brogioni, che ha raccontato un po' la storia di questa bretella, l'ha riassunta proprio perché, insomma, è diventato un motivo di discussione da un punto di vista urbanistico. Ripetiamo, noi come movimenti, come comitati, la bretella che è stata promessa, che consisteva poi in uno scavalco con cavalcavia, con piloni che passavano sopra i Renai, ci ha sempre convinto effettivamente fino a un certo punto. Dopodiché è giusto che la salute e il diritto alla mobilità degli abitanti della Piana vengano prima di questa grande opera che è il nuovo aeroporto, che non risponde certo ai bisogni della quotidianità degli abitanti della Piana. Molte volte veniamo accusati di essere quelli, come dire, il partito del Calesse, no? Quelli che vogliono tornare all'età della pietra o delle caverne. Evidentemente non è così. Anche tra noi che ci opponiamo a questo aeroporto c'è gente che vola, c'è gente che prende l'aereo, e il problema non è rifiutare il volo in quanto tale o negare l'utilità o le possibilità che le connessioni via aerea hanno aperto all'umanità. Il problema è porre tutti i comportamenti umani all'interno di precisi limiti che oggi sono limiti che ci dà lo stesso pianeta Terra, che è saturo di inquinanti, che non ha più le capacità di assorbire appunto gli inquinanti, che non ha, sta esaurendo le risorse fossili. E ricordiamoci sempre che quando parliamo di trasporto aereo parliamo di enormi motori alimentati a combustibili fossili, e che per ora le diciamo utopie su aerei elettrici o ad altre fonti e forme di alimentazione sono ad oggi solo ed esclusivamente dei progetti sperimentali che niente hanno a che vedere con il trasporto merci, il trasporto passeggeri, che ha raggiunto cifre veramente impressionanti in tutto il pianeta e che vede la nascita di comitati ed esperienze di resistenza un po' ovunque, non solo le famose, diciamo, le resistenze che si creano in paesi del mondo dove il conflitto sulla terra e sulle porzioni di terreno va direttamente in conflitto con la vita, come per esempio il Messico, dove un'opposizione all'aeroporto aveva sviluppato ad Atenco e in quella regione un movimento enorme che abbiamo tutti visto e sostenuto a distanza e che si è poi interconnesso anche con l'esperienza zapatista e con altre esperienze di quel paese, o quella che è la resistenza popolare che si sta sviluppando in Indonesia contro la costruzione di un'altra serie di aeroporti, ma anche nei nostri paesi e nei nostri abitati, soprattutto in Italia, paese piccolo dove ad ogni ora di attraversamento automobilistico o di treno trovi un aeroporto. Gli aeroporti stanno dando, per traffico, per rotte, per numero di passeggeri, sicuramente tantissimi problemi, e vediamo la nascita di tanti comitati con i quali siamo ovviamente anche in contatto e cerchiamo di sviluppare lotte e battaglie comuni. Quindi il problema non sono gli aerei in quanto tali, ma i limiti che gli andrebbero posti ai movimenti, alle rotte, al traffico e quant'altro. E proprio in questo senso il diritto alla mobilità degli abitanti viene prima, perché la mobilità locale è la mobilità di tutti i giorni e quindi è la nostra vita quotidiana, che non può essere compensata dandoci la possibilità di prendere un volo low cost una volta l'anno o due volte l'anno, perché poi in realtà, e lo sappiamo tutti, per le classi popolari, per le classi lavoratrici, per chi lavora o per chi studia, le possibilità di spostarsi di fatto poi sono queste. Insomma, sull'aereo non si sale come se fosse un bus, non è così per costi, non è così per i tempi, non è così perché anche quando abbiamo la possibilità di muoverci, per esempio, i prezzi dei biglietti sono più cari. Quindi è vero che c'è il low cost, ma è anche vero che poi quando ti puoi spostare proprio per i tempi legati al lavoro, le masse popolari, la gran, diciamo, e la maggioranza della popolazione poi è costretta a spostarsi quando i prezzi sono più alti. Quindi sugli aerei non si sale come se fossero autobus, è un altro tipo di trasporto legato ad altri tipi di esperienze che, diciamo, la gente comune, mettiamola così, le classi popolari e le classi subalterne non fanno con la stessa frequenza con cui invece la fanno i manager, gli imprenditori, che sono il vero motore di questa trasformazione in aeroporto intercontinentale dell'aeroporto di Peretola, tanto voluta, tanto desiderata e tanto strillata. Comunque vorrei tornare, quindi, per chiudere poi su questo, all'articolo di Stefano Brogioni, che mi pare interessante da portare alla vostra attenzione, che è successo negli anni intorno a questa bretella. Lo vediamo subito, perché quelli che oggi fanno la promessa di realizzare la nuova mobilità accettando il nuovo aeroporto sono la stessa classe politica e si affidano allo stesso sistema industriale che ha creato lo sfacelo di cui ora parleremo leggendo l'articolo. Dalla cronaca di Firenze del 9 di dicembre, la bretella d'oro e i 29 milioni buttati, storia di un'infrastruttura mai nata. Stagno Prato, dietro front per i costi lievitati e anticipo perso. Una pioggia di milioni di soldi pubblici buttati via. Le imprese che ne hanno beneficiato sono poi pure finite male ed il territorio che avrebbe dovuto beneficiare di quella grande opera non ne ha mai goduto. E neppure la giustizia ha fatto il suo corso, perché la prescrizione è arrivata prima di qualsiasi sentenza. Storia triste della bretella Stagno Prato, un'arteria stradale di 9,4 km che avrebbe dovuto salvare la piana dal traffico, in particolare l'astra Signa, Signa e Campi, ed accorciare i tempi di collegamento a beneficio di residenti, cittadini, industrie. Storia di un'infrastruttura mai nata, per la quale la Regione Toscana sborsò il 23 ottobre del 2006 un contributo da 28,9 milioni di euro per non vedere muovere neanche una ruspa. Storia di un sogno il cui prezzo è lievitato a dismisura. Si è arrivata a calcolare un costo complessivo di 370 milioni, fino al punto a far recedere la stessa Regione dall'impegno preso. Storia vecchia, ma sempre attuale. Da quel momento sono cominciate le controversie legali, ma pure quelle sono servite a poco, forse a nulla. La bretella Stagno Prato avrebbe dovuto essere realizzata da un'associazione di impresa chiamata SIT, il cui braccio operativo si chiamava Bretella Scarl. Nella bretella Scarl c'erano tutti i colossi del cemento dell'epoca, il Consorzio Etruria, la BTP, che sta per Baldassini, Tognozzi e Pontello, la Coestra. I procedimenti giudiziari hanno ricostruito che quei 28,9 milioni di euro finirono proprio a loro. E vediamo come. La BTP incassò 14 milioni 450 mila e con quei soldi, il 31 ottobre del 2006, estinse due finanziamenti per lo stesso importo ricevuti da Unicredit un mese prima e fatturati da BTP alla banca come anticipazioni sul futuro credito in arrivo da Bretella Scarl. Al Consorzio Etruria andarono invece 7.225.000 e con quella ci pagò fornitori e debiti vari. Anche Coestra, che percepì la stessa somma del Consorzio Etruria con l'anticipo per la bretella, pagò i suoi creditori. Ma erano tutte questioni che nulla avevano a che vedere con la grande opera per cui la Regione aveva elargito un anticipo per cominciare i lavori. È provato che il contributo finanziamento ricevuto da SIT non venne destinato neppure in parte agli scopi per i quali era stato erogato, sentenziò il giudice Francesco Maradei, al termine del processo che vedeva imputati le tre imprese che sperperarono il contributo. Processo finito in prescrizione nel 2016. Ma la Bretella, al momento del dibattimento in aula, era già soltanto un ricordo. La regione aveva infatti stanziato quei soldi quando l'opera sarebbe dovuta costare complessivamente meno di 250 milioni di euro, ma con il passare degli anni, le varie modifiche apportate al progetto iniziale, richieste da enti e comuni e la valutazione di impatto ambientale, avevano fatto schizzare il prezzo della Bretella a 370 milioni. Che significava che la regione ne avrebbe dovuti mettere 90 e tutto saltò. Danno, beffa, code, quelle ci sono ancora, assieme ai malumori della piana. Ecco, questa è un po' un riassunto di chi ha guadagnato su questa Bretella. È una storia triste, come l'ha definita il giornalista della Nazione, ma è anche una storia italiana, è anche una storia del tutto normale per certi aspetti in un paese normale come questo, e ci spinge ancora una volta a ribadire che quello che è successo per questa Bretella, quello che è successo per i cantieri TAV ancora aperti, dove la buca Foster è costata quasi 800 milioni di euro, può tranquillamente succedere anche per l'aeroporto internazionale. Il finanziamento da parte del governo dovrebbe essere di soli, tra virgolette, 150 milioni di euro, ma chi lo sa cosa potrebbe succedere in corso d'opera. Con molta probabilità, e l'abbiamo detto tante volte, la sola movimentazione terre per cominciare, il solo spostamento del fosso reale, che regima, ripetiamolo, tutte le acque basse e alte che arrivano dalla piana, che arrivano nella piana dal Monte Morello, e che lo stesso consorzio di bonifica Medio Valdarno ha bocciato la proposta di Toscana Aeroporti ENAC di interrarlo per farlo passare sotto il raccordo autostradale, potrebbe andare a costare esattamente questa cifra, e è solo l'inizio. Poi che succede? E se poi i soldi finiscono, se poi i soldi mancano? Ecco che anche l'aeroporto potrebbe tranquillamente configurarsi come un nuovo bancomat della politica, in cui tutta la retorica che sostiene la necessità di ammodernare le infrastrutture alla fine si risolve in non nulla, e alla fine gli abitanti, i cittadini di Firenze e della Piana si ritrovano con l'aeroporto di Peretola vecchio, cioè quello attuale, che continua a funzionare a pieno regime e sul quale Toscana Aeroporti potrebbe addirittura voler aumentare il proprio traffico passeggeri. Si ritrovano con una piana sbancata, con qualche oasi devastata e piallata, con cantieri aperti mai finiti, e con tutto questo che va avanti mentre il paese ha bisogno di diritto alla casa, ha bisogno di trasporto pubblico, ha bisogno di sviluppo, di lavori utili, necessari e dignitosi. Tutto questo crediamo che non lo possiamo certamente accettare, e continuiamo le nostre battaglie, alle quali Radio Wombat continua a dare un suo spazio. Con questo ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana. Un pugno chiuso a tutti e tutte voi. No aeroporto, no inceneritori, no grandi opere. Fermarli è possibile. Ciao!